woman child needn't cry anymore. Now we all know what you've long known before. Sad that it took a world's lifetime to see. He's wanted just to be free. Strong men shall know where your armor of fear. Your dreams of love is what brought this day here. Evil is lost and hate has deceived. Joy is of what we feast. For life can now live in world peace. Dormi vicino, la guerra è finita. L'acqua ed il vento saranno con te. E poi cresci vicino nell'Africa unita. Dormi che noi siamo qui. Dormi, noi siamo con te. Ritorneranno le danze e i colori. Continueranno per sempre con te. Profumo e sapori, piccolo amore, per ogni stella che cade dal cielo, un nuovo amore fiorisce laggiù. Bimbi che corrono e giocano in pace e che non piangono più, e che non piangono. Sweet woman child, needn't cry anymore. Now we all know what you've long known before. Was my time to see. He's wanted just to be free. He's wanted just to be free. Soldiers have put down their weapons.